Partiamo appunto dall'origine, quindi dalla sentenza del 75, lì si dà un po' il via, se non comunque legale, ma di fatto alle radio private. Come mai, secondo te, quindi alla luce della tua esperienza, queste radio cosiddette libere o poi in seguito private hanno iniziato a fiorire un po' dappertutto? È come aprire la porta, il sesamo della via di Babà e 40 ladroni, insomma. Ti danno improvvisamente la possibilità di poter trasmettere, anche se era una cosa proprio che nasceva dall'assoluto ignoto, proprio trasmettere voleva dire, dobbiamo pensare a un ambito estremamente locale, ma anche se soltanto ti dicono c'è un apparecchietto qui, poco più del tuo stereo di casa, che se ci parli dentro si può sentire fino al palazzo di fronte, cacchio bellissimo, io parlo qua dentro e dico a qualcuno di accendere la radio, quindi uno strumento che manda in onda cose importanti e grandi, nazionali eccetera, accendi la radio e mi senti, è fantastico, no? Poi dentro questo apparecchietto, oltre a quello che dico io mi senti, posso mettere dei dischi della musica, posso magari con un'antenna un po' più grande, pure lì non è che c'erano i fabbricanti di antenne di trasmettitori per radio private, c'erano dei trasmettitori militari e delle antenne utilizzate per scopi molto molto tecnici, cioè non per mandare musica. Con questi apparecchi estremamente inadatti si poteva arrivare se non da un palazzo all'altro, da un quartiere all'altro. E così si è cominciato. E così è iniziato l'hobby, tra virgolette, l'iPod della situazione, il Tamagotchi, il gioco più nuovo e più straordinario che da quando io sono nato e possa essere mai cominciato. La PlayStation forse a sti livelli, perché dentro questa radio qua c'era subito questo piccolo germe che era mi faccio sentire, cioè io mi faccio sentire da te e non viceversa. Quindi comunque eravamo tutti assolutamente interessati, non c'è nessuno essere vivente in Italia, ma sì, sicuro nelle grandi città, che non sia stato almeno una volta dentro una radio dal 75-77 e ti dirò di più, che non abbia almeno parlato e dentro una radio una volta. Cioè tutti quelli che conosco, tutti, che oggi facciano il capitano di industria, Trocchetti Provera, il marinaio, hanno fatto almeno una volta una cosa del genere. Per dirti quanto era diffuso questo hobby. Se tu eri nel 75 dai 14 ai 25 anni, non poteva interessarti altro che questo in quel periodo. Quindi i contesti in cui sono nate queste radio libere sono quelli giovanili prettamente, quelli politici e quelli sindacali in parte. Che cosa si ricercava quindi nel modo di far radio, in quel modo di far radio? Beh, ecco, questo che ti ho detto è stato il Big Bang, no? Cioè la scoperta di questo mezzo, ma in modo completamente diverso, sembrava come gli altri mezzi, qualcosa calato dall'alto, quindi si è scoperto che si poteva fare in casa e mandare in onda, e quindi questo hobby, questo gioco, è stata la spinta di sicuro più importante dei primi 2 o 3 anni. Subito qualcuno ha cominciato a pensare come utilizzarlo, visto che mi devo far sentire, visto che bene o male so cos'è una radio, perché non è che avevamo scoperto la PlayStation. Quindi chi si occupava di politica? Tutti, devi tenere presente l'humus in cui nasceva questa faccenda, che cos'era il 75, cosa c'era, sia dal punto di vista politico-sociale sia dal punto di vista musicale. Cioè voglio dire, noi la musica l'amavamo, boh, credo quanto più dei ragazzi di oggi ovviamente, ma non è che avevamo 400 canali. Quindi la musica te la dovevi cercare. A poterne disporre improvvisamente perché c'era una radiolina o una miriade di radioline che mandavano in onda teoricamente di tutto, non certo come oggi. Beh, era straordinario perché io i dischi ne avevo 10. Di dischi che, ne avrei, che conoscevo e avrei voluto avere, ce n'erano almeno 100. Dischi che non conoscevo, ma sicuramente mi sarebbero piaciuti, ce n'erano 1000. E quindi, caspita, era un continuo cercare scanalando su queste FM. Perché ogni 2 settimane nasceva qualcuna e ne moriva un'altra, era veramente un Big Bang, un magma primordiale. E dentro qui chiaramente si infilavano quelli che, oltre alla musica, volevano fare con le parole un uso della radio divulgativo. L'omologazione culturale, diciamo l'appiattimento, il lavaggio del cervello, era diffuso in modo già molto capillare nelle scuole e in tutte le altre istituzioni o ritrovi. Quindi se tu eri un ragazzo non potevi che pensare in un certo modo. Per esempio se ti piaceva la musica, perché per musica non intendo il giardino dei semplici cugini di campagna, per cui la musica che piaceva a tutti i ragazzi era musica che per trovarla bisognava per forza frequentare o passare da determinati meccanismi che erano già stati occupati da una certa omogenizzazione culturale. culturale. Quindi per fortuna il qualunquismo, cioè la voglia semplicemente di divertirsi, di far cose, ascoltare musica e vaffanculo, è stata nonostante tutto più forte di questa omologazione culturale, che ti assicuro era massiccia e capillare in un modo tremendo, cioè non c'era nessuno che poteva sfuggire, sembrava almeno. Invece poi è stato possibile, perché da queste radioline, insomma, voglio dire, non sono riusciti questi qua a farle tutte in quel modo che avrebbero voluto, sono diventate quasi la maggioranza comunque radio libere. Esatto. Ce n'erano tante politicizzate, sindacalizzate. Concezione della radio in seguito a questo cambiamento, questo Big Bang? Beh, chiaramente è cambiato tutto, cioè è stata stravolta qualsiasi visione. La radio era uno strumento uguale agli altri, proprio uguale. Cioè, era fatto di programmi, era fatto di cose a volte belle, a volte non belle, a volte carine, molto spesso noiose per noi. Sicuramente non era uno strumento per i giovani, e infatti è rimasto quello. Cioè, la radio che ascoltavamo noi, bene o male, sì, è evoluta di molto, chiaramente, anche quella, perché è vissuta 30 anni in mezzo a un sistema misto, la Radio Rai intendo. Però anche adesso, se la senti, ti rendi conto che non c'entra un cazzo. Infatti se io non la considero radio, Radio Rai non è una radio per me, è un altro mezzo importante, è ascoltato, quello che vuoi, ma non è, e ci ho anche lavorato per 2 anni a livelli alti, niente, l'ho frequentato e sono andato in onda, ma non l'ho considerato far radio. Quei 2 anni lì per me ho continuato a non andare in onda, che fa parte del periodo in cui ero fuori dal microfono. Comunque la radio era quella lì, quindi in realtà vedi, non è che abbiamo cambiato il mezzo, ne abbiamo fatto un altro, l'abbiamo inventato da zero, perché tutti i meccanismi, non quelli di adesso molto sofisticati, di cui magari parleremo anche noi un pochino dopo, ma i meccanismi bene o male che servivano, tecnici, che base almeno per poter fare una cosa che arrivasse, anche se era delle più semplici, trasmettere dei dischi, per farlo arrivare bene alla gente deve avere un linguaggio. Questa è la tua scuola. E il linguaggio base della radio libera di allora, cioè mettere un disco dietro l'altro e parlarci in mezzo, era una cosa che non era affatto facile quando ci siamo messi a fare. E naturalmente abbiamo solo la possibilità di ascoltare delle radio estere, perché qua, dentro la RAI non faceva questo. Non esisteva quella radio lì, la radio che facciamo oggi, che invece esisteva già all'epoca. Non tutte, perché anche la BBC, a parte qualche programma, non era così, e c'era questa radio Lussemburgo, quindi. C'era Radio Monte Carlo, che era come la RAI, però almeno aveva un tono, aveva almeno, una volta acquisiti certi meccanismi, aveva un come che era più gradevole di quello Rai, che era molto paludato, però quello che bisognava imparare sicuramente potevamo scimmiottarlo da radio inglesi, americane. Pirata, esatto. Quindi abbiamo ascoltato quelle, abbiamo cominciato a scoppiazzare qualcosa, ma per farti un esempio clamoroso, io ho riascoltato delle cassette mie, ma dell'80, non del 76. Cioè, quando calcola che un anno di allora è come 10 anni di adesso, le cose cambiavano a velocità allucinante. Quindi dopo una vita che eravamo in onda, quando ormai non soltanto eravamo i più bravi, ma era risaputo a livello mondiale che noi, quelli di 105, eravamo i maestri, io ho risentito una cassetta di una classifica che facevo, cioè uno dei programmi già di culto di allora, e noi aspettavamo che quella cantasse per entrare a parlarci sopra. Noi cambiavamo i dischi ancora, perché era il sistema che avevo usato all'inizio, quindi il cambio era il più possibile creativo, ma non era un messaggio, mica eravamo capaci, tra un disco e l'altro. Poi, siccome il momento di pathos di chi sta ascoltando in quel momento una musica che fuoriesce da questo apparecchio arrivava al suo massimo quando questa canzone, che calcola non è una canzone come oggi che è ripetuta un miliardo di volte, era quasi sempre una mezza scoperta, certo. Magari la conoscevo, magari l'ho sentita 2 volte, però non era così frequente, quindi quando ti arrivava l'ascoltavi con una grande attenzione, ogni secondo che passava era importante, e il climax era quando iniziava il cantato di solito, ed ecco perché noi parlavamo lì, ma non per rovinarlo, perché era il modo, il punto migliore dove inserire, era come mettere il sottofondo giusto a livello cinematografico, ecco, può essere questo l'esempio. Cioè metto la colonna sonora più giusta possibile per poter entrare a dire una cosa importante, quindi per farla diventare ancora più importante, magari voglio incensare lo stesso disco che sto mettendo, non mi rendo conto che lo sto rovinando, però ti dico il meccanismo, cioè prima di capire che era il contrario, eppure ascoltavamo queste radio estere, loro facevano così. Non ti so spiegare come mai questo meccanismo era diverso, però cioè noi siamo arrivati lo stesso a stabilire le regole, e quando dico noi intendo dire quel gruppo che poi si è ritrovato a Radio 105, che è stato quello che per i primi anni è riuscito per un periodo abbastanza lungo a diciamo essere leader, e quindi essere poi dopo copiato dagli altri dal 77 praticamente, dopo Radio Milano International, che però non hanno fatto in tempo diciamo a essere sentiti in tutta Italia per essere copiati. E noi siamo stati invece proprio quel gruppo, con Federico, con Gianni Rizzo, con Cecchietto soprattutto, con P3 che era già qua a Radio Milano, è stato poco anche da noi, quindi non se lo ricorda nessuno, ma era il più importante, più bravo di tutti. E io, Federico, appunto, Gianni Rizzo, come dicevo, Max Venegoni, Leopardo. Ecco, questo gruppo di persone qui è stata quella che poi ha imparato e ha studiato e ogni volta metteva in campo nuovi sistemi. Allora ti dicevo del disco, tu arrivavi per dire quella cosa importante, scegliendo le parole belle, il tono di voce giusto, ma senza avere degli esempi da copiare, no? Per mettere insieme questi elementi che sono sciocchezze, se ci pensi, perché sono, allora devo dire una parola, devo dirla con un certo tono e devo dirla in un certo punto. Già questa era un'alchimia difficilissima da trovare, e tant'è vero che siamo andati avanti degli anni, ripeto, a fare il contrario di quello che si è fatto dopo. Cioè parlare da quando iniziava il cantato, proprio per dire, ecco, è arrivato il momento magico, adesso qui è il momento di entrare. Per farti un esempio del cazzo. Ed era così, ed era bello, e ti ripeto, già allora c'era la stragrande maggioranza delle persone che hanno decretato, insomma, che sentivano questa cosa, quanto era bella e fatta bene, che avevano già deciso che eravamo i migliori in assoluto e lo saremmo stati per 10 anni a venire in tutta Italia. Avevamo un meccanismo, quindi questo, così stupido, che era così perfetto da essere non solo apprezzato da tutti, ma copiato, imitato e rifatto uguale. Cioè eravamo diventati già quelli da copiare, cioè quello che noi non avevamo avuto, sembrava l'avessimo imparato chissà dove di nascosto, perché questo era anche quello che nel mondo c'era, cioè i segreti. Oggi è tutto così evidente, da fin da quando sei piccolo è tutto così disponibile che non c'è niente da scoprire, no? Apparentemente. Invece allora cosa pensava chiunque, un ragazzo, anche uno più grande, quando arrivava una cosa nuova? Che questo qualcuno l'aveva trovata da qualche parte e quindi era arrivato semplicemente prima di te all'informazione, visto che le informazioni non erano disponibili così tanto e così bene. Quindi hanno pensato tutti che noi avessimo imparato da qualcuno. Il fatto che eravamo a Milano dimostrava ancora di più che era ovvio, perché se c'era qualche posto dove c'era qualcosa che era un po' più avanti era Milano, quindi in qualche scassetto di qualcuno avevamo trovato le regole del gioco e le avevamo cominciate ad applicare. Ed ecco che quindi abbiamo cominciato a creare dei meccanismi. Ovviamente sto parlando della preistoria arcaica, di quando uno ha scoperto la ruota e il fuoco.